I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra. Io sono per la scelta. Parlo sempre ai ragazzi della scelta. E solo con la scelta di tutti i minuti, di tutti i giorni, di tutti gli atti, da lavarsi i denti fino a decidere chi sposare o no. Ma non ero e non sarei mai stata un'assassina, faccio fatica anche con le formiche. Sicuramente ho fatto una scelta, ma che è stata una scelta naturale. Io non ero come lui. Era lì la scelta. Era lì la scelta. Alla fine è sempre una questione di scelte, quelle che si fanno in qualsiasi momento della vita, quelle che poi, ad un certo punto, per dirla con la senatrice Liliana Segre, stabiliscono che donna o che uomo sei. Sei sempre tu, ad ogni bivio, a scegliere da quale parte stai, anche quando si scrive un tweet, anche quando si decide di non essere indifferente, anche quando si risponde alla violenza, agli attacchi e al negazionismo in crescita. Mi hanno detto a breve una svastica su una vetrina, ieri o l'altro ieri a Noto in Sicilia. Ci stiamo abituando. Sono io che non ero abituato, non mi era mai successa una cosa di questo genere, francamente. E devo dire altrettanto francamente, non vedo l'ora che finisca. Torniamo alla vita normale, che il paese ne ha bisogno. Aldo Rolfi è il figlio di Lidia Rolfi Beccaria, che nel 1944 fu deportata nel campo di concentramento tedesco di Ravensbrück. È sulla porta della sua casa a Mondovì, nel Cuneese, che è apparsa la scritta Juden hier, qui abita un ebreo. Come qualche giorno dopo è successo a Torino, sul citofono di un'altra ex partigiana. E anche in questa occasione i concittadini hanno dovuto scegliere se far finta di niente e guardare altrove o invece scendere in piazza, come hanno fatto a Mondovì con le candele, per esprimere solidarietà ma anche per non restare in disparte davanti al netto incremento di aggressioni e insulti contro gli ebrei in tutto il nostro paese e non solo. Abbiamo registrato nel corso del 2019 251 atti di antisemitismo. Costituisce un aumento rispetto all'anno precedente, quando ne abbiamo registrati 196. Di che cosa stiamo parlando? Il 70% degli atti di antisemitismo in Italia ruota intorno al web. Cioè ci sono gli insulti, poi ci sono magari delle minacce. L'antisemitismo italiano non ha connotati violenti omicidi, come ad esempio quello che caratterizza la Francia o la Svezia. È preoccupante il fatto che, soprattutto in rete, questo fenomeno, così come altre forme di pregiudizio, di razzismo, siano state completamente sdoganate. C'è anche il passaggio al mondo reale. Stefano Gatti è un ricercatore dell'Osservatorio sull'antisemitismo e dà a Storiacce un'anticipazione del rapporto annuale con tutti gli episodi di violenze o aggressioni verbali contro la comunità ebraica in Italia. Casi di sputi, di scritte sulle pareti e soprattutto tantissima aggressione sui social. Ma in Italia il livello d'allarme resta comunque molto al di sotto di quello di altri paesi europei come Francia e Gran Bretagna. C'è un aumento degli episodi di antisemitismo dappertutto, sia nel mondo virtuale che nel mondo reale. Esatto. Aggiungo però una cosa, c'è anche il passaggio al mondo reale. Quelle che sono appunto le espressioni che vengono utilizzate, il linguaggio d'odio dei social in particolar modo, diciamo, non resta poi comunque soltanto confinato al mondo dei social, ma finisce spesso e volentieri per diventare un po' una sorta di miccia che agevola, certo, anche episodi, certo, di attacchi, se non di violenze, anche al di fuori. Ecco, su questi episodi avvenuti al di fuori del mondo della rete, se negli ultimi giorni appunto la cronaca ci ha parlato scritte sulle porte, in questo anno che ci siamo lasciati alle spalle, in questo 2019, che cosa invece è successo fuori dalla rete? Ci sono questi fenomeni di minacce, ad esempio di persone che si sono trovate magari sul citofono delle svastiche, e ci sono stati casi che io trovo inquietanti di antisemitismo all'interno della scuola, ad esempio ricorderà quella lista su WhatsApp, no? Il Shoah Party, e questo è particolarmente preoccupante perché ha visto dei ragazzini che si scambiavano del materiale non solamente antisemita ma anche razzista. Un ragazzino che era stato aggredito verbalmente in una scuola, un ragazzino ebreo, ragazzini che cantavano delle canzoncine antisemite, una donna è stata aggredita verbalmente, ha ricevuto uno sputo in viso e un'altra persona è stata insolentita con degli insulti omofobi omofobi e insultata, poi con gli insulti antisemiti e schiaffeggiata. Ecco Gatti, queste sono le cifre e il quadro italiano preoccupante, ma se lo confrontiamo con quello europeo lo è di gran lungo, lo è molto meno. Assolutamente, non c'è paragone. Cioè, noi, se noi prendiamo gli esempi che sono quelli della Francia, del Regno Unito, della Germania, del Belgio, questi sono paesi dove gli ebrei vengono ammazzati, non nel caso del Regno Unito, però qui ci sono le sinagoghe, si va all'assalto della sinagoga, cioè una cosa completamente diversa, ma anche in Australia, una realtà in cui l'antisemitismo è aumentato notevolmente nel corso degli ultimi anni, abbiamo aggressioni fisiche. Ma anche al di fuori dei casi più gravi, come può essere stato l'attentato di Halle in Germania oppure quello in Australia, per avere un ordine di grandezza e quindi fare un paragone, nel Regno Unito quanti sono, con che media si registrano episodi di antisemitismo? L'anno passato circa 1700, sono più di 100 episodi al mese, e poi appunto le aree sono quelle lì che dicevo, cioè Londra, la grande Londra e Manchester. My grandmother survived the Holocaust thanks to her father's Brazilian passport. Mia nonna è sopravvissuta all'Olocausto grazie al passaporto brasiliano di suo padre. Hanno vissuto in Portogallo, Brasile e Canada e poi tornati in Francia. Avevo 7 anni quando mia mamma informò la mia babysitter che non avevamo più bisogno dei suoi servigi perché stavamo per trasferirci in Israele. E la mia babysitter polacca aveva 23 anni quando si rese conto che stava vivendo con una famiglia ebrea e si infuriò con mia madre e le chiese come fosse possibile che fossimo ebrei, visto che eravamo normali. Mia nonna aveva 85 anni quando fu uccisa da un vicino di casa, un terrorista musulmano al grido di Allah Akbar. Fu accoltellata 11 volte e poi data alle fiamme. Mia nonna è scampata all'Olocausto, ma è stata comunque uccisa perché ebrea. Survived the Holocaust, but was still murdered for being Jewish. La storia di Marielle Knoll, raccontata dalla nipote, ci parla drammaticamente di quello che prima veniva denunciato con le statistiche, il dato cioè allarmante della Francia. Ma quanta parte di questa violenza fisica nasce prima all'interno del linguaggio d'odio di cui anche le nostre bacheche e le nostre timeline sui social sono piene? Quanto di questa violenza matura anche nella volontà collettiva di non vedere ciascuno quello che ha intorno a sé? È sempre dunque una questione di scelta, quella che un giorno di 75 anni fa portò Liliana Segre alla fine della sua prigionia a stabilire che donna sarebbe stata. 4 soldati russi che aprono e si trovano davanti questo spettacolo incredibile. Al momento i loro occhi, poi più tardi, molto più tardi, diventò uno spettacolo incredibile. Per chi lo volle guardare, qualcuno non lo vuole guardare neanche adesso, dice che non è vero. E lo stupore per il male altrui, sono queste parole straordinarie di Primo Levi, perché questo stupore per il male altrui, nessuno che è stato prigioniero ad Auschwitz l'ha potuto mai dimenticare un secondo della sua vita. Mi accorgo che gli altri mi guardano stupiti, perplessi, dubitano della mia integrità mentale, mi credono pazza. I più disponibili mi ascoltano educatamente per pochi minuti, poi mi pregano di cambiare discorso perché non possono sentire. Fa troppa pena. Subito dopo la guerra, quando io per caso rimasi viva e tornai nella mia Milano con le macerie ancora fumanti, incontrai delle mie compagne di scuola che non mi avevano visto più. Rincontrate dopo 3-4 anni mi dicono: ma tu Segre, dove sei andata a finire che non t'ho più vista a scuola? Io ero una ragazza ferita, io ero una ragazza selvaggia, io una ragazza che non sapeva più mangiare con la forchetta e il coltello, perché ancora ero abituata a fressen, nicht essen, che voleva dire come le bestie che mangiano, fressen, non essen, e come tale ero bulimica e come tale ero anche disgustosa. La sua scelta Liliana Segre l'aveva già compiuta, quando avrebbe potuto usare l'arma contro i suoi aguzzini, avrebbe potuto, ma scelse di non farlo nonostante ne ebbe l'occasione. Come una scelta percorre ogni giorno anche chi decide se voltarsi dall'altra parte, restare indifferenti o parlare anche davanti alle storie di violenze e odio, compreso quello del linguaggio sui social. Da qui ripartono tra pochissimo i racconti di storiacce. Un luogo comune è un'opinione o un concetto la cui diffusione... Un po' di meno impostato, un po' di emozione. Ma sì, un po' di brio, dai. La cui diffusione, ricorrenza o familiarità... che cos'è? Vabbè, non sei credibile, cos'è il Carnevale di Rio? Ne determinano l'ovvietà o l'immediata riconoscibilità. Senti, teatro qua, tutto profondo, no. Basta questa cosa che il teatro è noioso, eh. È un luogo comune. In letteratura è detto topos e indica il ricorrere di un tema in un autore o in un genere letterario o artistico. Vabbè, non t'arrabbiare. Off topic. Fuori dai luoghi comuni. Il sabato alle 22.30 e la domenica alle 14 su Radio 24. I racconti di storiacce. La gente mi chiede, ma come mai ancora si parla di antisemitismo? Ma perché c'è sempre stato, perché era solo, non c'era il momento politico per poter tirar fuori l'antisemitismo e il razzismo che sono insiti nell'animo dei poveri di spirito. Sì, è così. E poi arrivano i momenti in cui ci si volta dall'altra parte, in cui è più facile di nuovo far finta di niente, è più facile guardare il proprio cortile, ma è una cosa che non mi interessa, ma perché mi deve interessare, non mi riguarda. E questo è uno di quei momenti in cui si dà sfogo all'odio, in cui si usano certe parole, in cui si compiono certi gesti. Questo è uno di quei momenti in cui ci si volta dall'altra parte e tutto lo racconta. L'aumento degli episodi di antisemitismo, di cui abbiamo parlato nella prima parte di Storiacce, l'aumento anche del negazionismo verso la Shoah registrato dall'Eurispes. Questo è uno di quei momenti di cui parla Liliana Segre, in cui questa ostilità viene a galla contro gli ebrei e non solo, a cominciare dalle parole usate. Le parole, quelle usate sui social innanzitutto, con cui è stato possibile tracciare in 5 anni di studio una mappa dell'odio, come quella fatta dall'associazione Box di Diritti insieme alle università di Milano, della Cattolica, della Sapienza e di Bari, di cui Silvia Brena è una dei fondatori. Noi mappiamo l'odio, quindi il linguaggio su Twitter in particolare, d'odio nei confronti di migranti, donne, musulmani, persone con disabilità, ebrei e persone omosessuali. Nell'ultima rilevazione che abbiamo fatto, che è data a novembre-dicembre 2019, per quanto riguarda l'antisemitismo, ha visto un balzo dello stesso al 25%, ma se andiamo indietro negli anni vediamo che c'è una progressione che risulta abbastanza drammatica e purtroppo in linea con quanto sta avvenendo in tutta Europa. E anche in linea con quanto anche l'ultimo rapporto Eurispes ha appena rilevato, cioè sull'aumento non solo dell'antisemitismo ma anche del negazionismo. È una progressione che ha dell'incredibile, se pensiamo che quasi non esisteva l'antisemitismo 5 anni fa a livello di discorsi d'odio e quindi di insulti e di offese. Per quanto riguarda il livello verbale, ci sono 2 considerazioni da fare. La prima è che anche il livello di aggressività è aumentato rispetto agli anni precedenti, quindi le frasi sono molto più ostili. La seconda è che gli insulti e le offese si rifanno a degli stereotipi che sono degli stereotipi drammaticamente correlati con la storia passata e in particolare con l'antisemitismo veicolato dalle leggi razziali. Quindi l'ebreo è un usuraio, è una zecca, è uno strozzino, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda invece che cosa scatena i picchi di odio, e per esempio nella prima rilevazione dell'anno, quindi marzo-maggio, cito 3 fatti di cronaca. Il primo è avvenuto attorno al 16 di aprile, era un bambino ebreo bullizzato in una scuola media di Ferrara. i bulli dicono, quando saremo grandi faremo riaprire Auschwitz, eccetera. Il secondo è un post di Giorgia Meloni che ha pubblicato sui social, un post in cui definiva Soros un usuraio. Il terzo elemento scatenante è stato il discorso di Papa Francesco, che invitava a superare gli stereotipi sugli ebrei e a combattere l'antisemitismo. In coincidenza di questi momenti, diciamo, c'è stato un maggior picco di antisemitismo. Sì. E per quanto riguarda invece la cronaca più recente, quindi novembre-dicembre, il caso in assoluto che ha scatenato questo picchi di antisemitismo è stato il caso Segre. Quindi prima la notizia degli insulti postati sui social alla senatrice, poi il fatto che le sia stata conferita la scorta e poi la notizia della commissione, dell'istituzione della commissione contro l'odio. Quanto spesso dalle parole d'odio si passa poi ai gesti d'odio? In Germania da tempo si interrogano su questo, un'esigenza divenuta ancor più urgente dopo l'attentato di Halle contro una sinagoga e davanti all'escalation di movimenti neonazisti nell'ex Germania dell'Est. Perché quelle parole, anche quando non degenerano in atti di odio, comunque cambiano la vita e il clima, come ha visto succedere a Lipsia il rabbino Zolz Balla. Devo dire che io vado sempre in giro con la kippah e fino a non molto tempo fa qui a Lipsia era assolutamente normale. Solo dopo l'attentato di Halle la gente nota la mia kippah. Resta meravigliata, sorpresa, forse anche spaventata. Ho fatto caso ai loro occhi. Ma cosa posso fare? Io sono ebreo. C'è una camionetta della polizia davanti alla sinagoga di Lipsia, mentre incontriamo Zolz Balla, il rabbino competente su Halle. La protezione è stata assegnata subito dopo la strage. Ora all'interno della comunità ebraica molti stanno pensando di andare altrove, visto anche il clima politico dell'area. Ma qui quello che soprattutto è cambiato è l'atmosfera. Leider brauchen wir einen Schutz, aber gleichzeitig ich wünsche mir. Purtroppo abbiamo bisogno di una protezione. Vorrei che non solo qui, ma in tutta Europa, noi potessimo vivere la nostra fede senza pericoli. Questo è un problema globale. Dopo l'attentato di Halle, ma anche dopo le elezioni in Sassonia, Turingia, Mecklenburgo, molti anche della mia comunità hanno detto di non voler restare qui, ma di trasferirsi in Israele. Ma non è questa la soluzione. Non possiamo sempre scappare. Noi desideriamo un'Europa in cui nessuno debba essere in pericolo per la sua fede. Questo vaso di Pandora è stato aperto da precisi fattori, a cominciare da un certo populismo e da una certa demagogia. Pandora's Büchse wurde geöffnet, wo bestimmte Sachen. E quando il vaso di Pandora si apre, si sa, come in questa fase storica, ecco che non sorprendono più tutti gli episodi, ora di scritte sulle porte contro gli ebrei, ora di insulti sui social. E quando il vaso di Pandora si apre, insieme all'allerta degli investigatori, serve soprattutto la condivisione di quello che è stato, come anche la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, avverte. Partiamo da quella frase di Primo Levi, comprendere è impossibile, conoscere è necessario. Quei segni, quelle parole portate su alcune porte di a Mondovì e non solo a Mondovì ci devono allertare. E allora, contro chi nega, contro chi odia, contro chi aggredisce, contro tutti quegli atti che, come abbiamo visto, confermano il vento del nuovo antisemitismo, contro questa nuova stagione dunque non si può che tornare alla scelta iniziale, quella che compì Liliana Segre quando decise di non usare le armi contro i suoi aguzzini. La scelta di ascoltare anche le parole più crude per non voltarsi dall'altra parte, ma conoscere, visto che non si può invece comprendere. Io non fui liberata il 27 di gennaio dall'Armata Rossa. Io facevo parte di quel gruppo di più di 50.000 prigionieri ancora in vita e che eravamo stati obbligati in quelle condizioni di cominciare quella marcia che durò mesi e di cui si parla pochissimo, la marcia della morte. Dico che ognuno deve una gamba davanti all'altra nella vita, non appoggiarsi mai a nessuno, perché nella marcia della morte non potevamo appoggiarci